Franco, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, benissimo. Benissimo, senta, io ho questa realtà, nel nostro condominio a Milano, all'interno del condominio abbiamo creato una cosa pomposamente chiamata Clubhouse, dove ci vediamo, ci incontriamo, abbiamo creato una cucina, eccetera, E eccetera. dove l'avete Quando... fatto? Nel terrazzo? No, no, no, nel giardino che abbiamo all'interno del Ah, condominio, il un giardino condominio interno, sì. fantastico. Ecco, il problema vero qual è? È che con andare avanti nel tempo, alcuni condomini non d'accordo che le spese, cominciano a dirti le spese ludiche non possono essere divise fra tutti. Se fai una cucina devi avere l'autorizzazione dell'ARA. Se fai dei giochi, magari tombola Natale, ti chiedono di andare dal notaio. Insomma, guardi, io che gestisco un po' questo divertimento collettivo, chiamiamolo così, è veramente drammatico. Sa Franco, però l'equazione felicità non viene messa mai in gioco nelle riunioni condominiali. Si parla del rumore che fanno i bambini, si parla dell'ascensore che non funziona, si parla delle ritinteggiature della rampa, delle scale, ma la felicità degli abitanti di un condominio sembra che sia qualcosa che non interessa a nessuno. Tutte le volte che uno pone comunque sul piatto delle proposte legate alla felicità, che sono appunto la rampa per le biciclette, lo spazio per i bambini, l'uso del terrazzo, ti guardano come tu avessi bestemmiato. Certo, guarda, io sto organizzando un torneo ma per sindicarte mi dicono, ma ci vuole l'autorizzazione ministeriale. Beh, Io pur di dico, ma rompere le palle, certo, è chiaro. ecco, bravissimo, lei ha detto una frase meravigliosa, Sì. nessuno cerca la felicità.